Buonasera, buonasera, bentrovati a tutti quanti. Non sono ancora con voi, per così dire, a pieno titolo, ma approfitto di quella che si potrebbe chiamare una pausa di trasferimento dei miei travagli ospedalieri per mandarvi un breve saluto e naturalmente per ringraziare di cuore quanti mi hanno fatto avere i sensi della loro benevolenza e del loro affetto. Gli sono grato, mi auguro che mi vogliano sempre bene, qualsiasi cosa succede, e per ora che sopportino con santa pazienza il fruscio del registratore portatile. Qualcosa sempre dobbiamo sopportare tutti. A proposito, un paio di settimane fa, se ricordate, l'ottimo Felice Accame qui presente, nel dar conto della mia assenza con inattesa commozione, in attesa per voi naturalmente, perché a me è ben noto da anni come sotto la ruvida scorza dell'implacabile analista si cevi una sensibilità da damigella preraffaellita, l'ottimo Accame ha cercato di consolarvi facendo notare che, se non altro, ero assente perché ospite di una struttura ospedaliera e non, come altre volte mi era capitato in questa stagione, di qualche organizzazione turistica. Essendo lui radicalmente ostile alla pratica dell'organizzazione turistica, nonché alla relativa ideologia, l'argomento sulle sue labbra poteva avere una certa rozza pregnanza del tipo di "almeno questo gli è stato risparmiato", che come forza argomentativa non è un granché, ma in mancanza di meglio può sempre venir buono. Naturalmente a me, che ascoltavo la trasmissione a stento, costretto su un lettino scomodissimo e trafitto da fleboclisi assortite, l'argomento sembrava pochissimo consolatorio. Com'era e come non era, con tutta la buona volontà, il ronzare sommesso dei monitor, il trapestio degli infermieri che s'affannavano per levare campioni su campioni di sangue, non mi sembrava affatto paragonabile al fruscio delle palme sulla spiaggia tropicale o al dolce sciagottio delle onde sotto la luna. Ma evidentemente, come succede spesso, era questione di punti di vista. In fondo si potrebbe anche sostenere che le strutture turistiche e quelle ospedaliere, con le relative ideologie di supporto, abbiano molto in comune tra loro. Entrambe presentano un certo carattere di totalità, assorbono il paziente a tempo pieno, lo isolano dalle sue frequentazioni abituali, gli precludono lo svolgimento delle attività consuete. Sotto questo rispetto, anzi, il turismo organizzato è molto più totalizzante della medicina ospedaliera, perché chi sia ricoverato nei guarda o al fate bene ai fratelli è sempre visitabile negli orari prestabiliti e con un po' di ingegnosità anche fuori da essi, mentre non è così facile raggiungere chi sia bloccato, diciamo, alle isole Mauritius. Entrambe le istituzioni accampano la pretesa di agire con l'unico fine del benessere del paziente, magari a costo di qualche rischio occasionale, di qualche insignificante disagio preventivo, mentre naturalmente quali siano le finalità profonde della struttura è una cosa tutta da stabilire e non può mai prescindere dagli interessi socio-economici di quanti vi sono direttamente o indirettamente impiegati. Ma soprattutto entrambe, dal punto di vista del fruitore, sono attività caratteristicamente eterodirette, in cui l'unica alternativa prevista è quella di prendere tutto quanto ti viene detto di prendere o di lasciare tutto ciò che ti assicurano che in caso contrario dovrai lasciare, incluse naturalmente le tue speranze di guarigione e di sopravvivenza. Che qualcuno, per esempio, preferisca rinunciare a visitare un certo museo preferendo il giro dei caffè del lungomare, o che, tanto per fare un caso che non mi riguarda direttamente, rinunci all'onore di un bel intervento chirurgico con doppia anestesia totale, è cosa che tende a mandare in grande agitazione coloro che sono proposti al suo benessere, o nel caso alla sua guarigione. Che volete che vi dica? Le strutture sono strutture, e si definiscono in quanto tali strutturando, appunto, le loro procedure, secondo criteri peraltro rispettabilissimi di economicità e di ripetibilità. Non c'è assolutamente niente da eccepire. Io però, che in netto contrasto con l'amico Felice sono un devoto cultore della prassi e della cultura turistica, e vorrei ben vedere che non potessi esserlo, visto l'arbitrarietà del valore, ho smesso da tempo di servirmi di agenzie, di viaggi organizzati, di pacchetti preconfezionati, di questo tipo di strutture qua, e in generale mi trovo benissimo. Questo, Questo vuol dire che devo smettere anche di servirmi delle strutture ospedaliere e dei relativi pacchetti di proposte. È un'idea allettante, eh? Ma così a occhio croce sembra poco praticabile. Probabilmente il parallelismo che abbiamo costruito prima non si legge più che tanto. Peccato. Dicen que por las noches nomás se le iba el puro tomar. Dicen que no comía, nomás se le iba el puro llorar. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba ay, ay, ay.